Io Marianna sto solo perché dagli altri prendo pugni sul muso e guardo il cielo possibilmente disteso. Avessi le ali ti porterei lontano sulle stelle e butterei nel vuoto ogni storia sbagliata che hai sulla pelle. Povera Marianna, quante ferite dalla testa ai piedi, nel mondo il male trova sempre gli eredi. I tuoi 20 anni sono rami precoci, perché sei un albero senza radici. E quando il buio scavalcava la luna e ti perdevi negli amori da niente, ancora adesso se ci penso ho paura che la tua storia sarà uguale per sempre. Che delusione se credi che il mondo non ha difetti. La storia non è mai stata bella come nei fumetti. E mai nessuno vada che su una vita a volte cresce una spada. Tu non la vedi ed è per questo che sei debole e cedi. Povera Marianna, con una figlia, un gatto e senza un marito, sulle tue mani 4 anelli per dito. Più fai l'amore, più ti fai dei nemici, e non lo sai, Marianna, senza radici. La chiromante che ti vende il futuro e quei ragazzi che ti prendono in giro, forse non sanno nemmeno che esisti, e tu Marianna nei tuoi sbagli resisti. Povera Marianna, dagli occhi verdi e il cuore pieno di segni, nessuno vede che pian piano ti spegni, nessuno asciuga quei tuoi occhi infelici, perché sei un albero senza radici. Ma io stanotte imbroglierò il tuo destino, e anche se piove ce ne andremo lontano, e anche l'inferno sembrerà il paradiso, io non ti perdo se mi tieni per mano.